Rosaria Lo Russo, da Nel nosocomio. I pazienti in coda per i buoni pasto sono allegri. La mensa del nosocomio contempla sempre il dolce, oltre che la frutta, un dolce piccolo ma gradevole alla vista e di sapore neutro come quelli dell'aereo. Quindi molto rassicurante, a basso contenuto di grassi. Ci sono troppi pazienti tendenti all'obesità nelle camere paganti. Ebbene, non illudere ma neanche deludere il paziente, i pazienti in coda per il prelievo. La mattina presto, invece, sono tristi, non potendo prendere il caffè macchiato col cornetto che al bar del nosocomio è più buono che nelle pasticcerie di fuori, chissà perché, ma è così, molto più buono, fresco, fragrante, sempre caldo, poco unto, ma con una spirale di glassa che, insieme alla caffeina, riesce a mettere quel tanto di allegria che basta.